perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, Masterchef del fisco, hai qualcosa da dire a proposito di questo rumore sinistro che stiamo ascoltando? No, ti volevo precisare, cara Deborah, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Eravamo un po' distratti. Continua a bollire, sì? il minestrone della DDL di bilancio. Con tutti gli ingredienti buoni e un po' meno buoni. È sì. Perché sono tutte verdure, sai che generalmente sono associate un po'. Speriamo alla dieta, di trovare sacrifici. Anche l'arrosto. Esatto. E quindi hai qualche novità stamattina da portarci? Guarda, allora, oggi innanzitutto è una giornata in cui, mi perdonerai, ma io sono distrattissimo perché oggi è il 30 di novembre. È il Tax Day e l'abbiamo già largamente preannunciato all'inizio settimana. Insomma, sono tutto un fremito perché ci sono, guarda... Tu e tutti i commercialisti d'Italia. Sì, forse loro più che un fremito hanno altri tipi di disagio, di però ti voglio dire, se tu provi a guardare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, troverai... Non so perché 60... ancora io non abbia aperto il sito, ma vado subito. Devo proprio cercare una pagina precisa. Ti ho detto 60 paginette di scadenze per la giornata odierna. Quindi immagina che giorno di gloria proprio. Io devo parlare con il nostro vice direttore per chiedergli dei chiarimenti sul perché si sia inventato questa trasmissione. Lui guarda e non che... solo. E ogni giorno mi obbliga a seguire queste notizie. Allora, intanto queste sono le scadenze odierne. Sono quelle in vigore. Poi ci sono quelle che forse cambiano. Come sapete, la famosa terza rata della rottamazione delle cartelle che passerà al 7 dicembre. No, esatto, quindi la dobbiamo pagare oggi o no? Allora, cara Deborah, io provo a dirlo non così. Che sia interessata, ma abbiamo molti amici che ci seguono che sono un po' preoccupati. Allora, ti riassumo com'è la situazione. Sì. Il decreto legge 148 sì. è stato corretto in Parlamento e sposta la data del 30 novembre per questa terza rata al 7 di dicembre. E questo ne avete scritto anche voi sul Sole 24. Però manca il bollo. Eh sì, perché quella correzione lì non è ancora una legge dello Stato. Ecco. Quindi a oggi la scadenza sarebbe in vigore il 30 di novembre. Arriverà, confidiamo che tutto andrà per il meglio e quindi si passerà al 7 di dicembre. Bisogna fare, come però... qualcuno ha scritto sul Sole 24 Ore, un atto di fede. Esatto, perché il contribuente ligio, magari un po' preoccupato del fatto che non abbia la norma paracadute per poter dilazionare ulteriormente di qualche giorno questo pagamento, magari in realtà, come non fidandosi, perché non fidandosi fa sempre bene, paga diciamo oggi, che, magari... ci sono ragionevoli motivi per fidarsi, però certo è un dato di fatto che la norma ancora, ohimè, non c'è. Vedi che ti stai appassionando, però anche ma tu... Ma sì, io in realtà sono un po' preoccupate, le insomma, tasse per gli italiani, in realtà perché, sono un mondo meraviglioso perché chi rateizza è perché ha qualche difficoltà ad avere la provvista per pagare le tasse, perché insomma questo procrastinare di 7 giorni da scadenza sarebbe anche importante potergliela confermare. Se mi concedi una sottolineatura, sì. È un peccato perché questa misura della rottamazione delle cartelle deve portarci qualcosa, vado a memoria, ma solo nell'anno 2017 5 miliardi di gettito, quindi ecco. Non è esattamente briciolina di pane, un briciolo. E quindi sarebbe forse meritevole di un'attenzione maggiore. Allora invece io oggi ti porto nel terreno che io preferisco, che è quello finanziario, perché abbiamo la consueta trasmissione del giovedì. Se ti fosse sfuggita la notizia sul Sole 24 Ore, ti rammento che dopo la simpatica sortita del nostro ascoltatore di ieri, che ci ha detto che lui non investe su strumenti finanziari tradizionali, quelli più noti, perché la banca non è contento di come gli faccia consulenza, quindi è andato tutto sulle criptovalute, le monete virtuali, le valute digitali, sta guadagnando un sacco di soldi, e proprio ieri sera invece abbiamo avuto il primo segnale sinistro dal mondo dei bitcoin. Perché attenzione, è andato un po' giù, mi pare. È andato un po' giù anche parecchio, da $11,000 è tracollato a 9,500, quindi fate attenzione, poi se volete avventurarvi su questo terreno lo fate a vostro rischio e pericolo. Detto ciò, direi che possiamo partire con la consueta rubrica del giovedì, te la ricordi? Mi sembra investire informati. Sentiamo se la sigla ti dà ragione. Investire informati. Hai vinto il quizzettone, ti regalo. Il primo quizzettone l'ho vinto io. Ti regalo il nuovo risparmio. Oh, ti ringrazio perché proprio oggi, infatti, con il Sole 24 Ore c'è la prima uscita del nuovo risparmio, che è questa guida. Parliamo seriamente adesso. Sapete che noi siamo per l'autorevole leggerezza, esatto. Però